Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi darò i numeri, o meglio parlerò di scienza, di fisica e di matematica, e comincio con la fisica, anzi parleremo di fisica italiana al femminile, perché l'autrice di questo libro è una donna, fisica è la stessa, giornalista, si chiama Ludovica Manusardi Carlesi, e il libro si intitola Il genio italico, l'eccellenza italiana nella fisica degli ultimi 50 anni, pubblicato da Bietti, 150 pagine, 17 euro. Ci si lamenta spesso nel nostro paese dello sviluppo scientifico in ritardo, del fatto che in Italia ci sia una scarsa propensione agli studi scientifici, ma in fisica non dobbiamo dimenticare di essere stati dei campioni. Lo fummo in particolare nel periodo dal 1924 al 39 con Enrico Fermi, Edoardo Amaldi, Ettore Majorana, Bruno Pontecorvo, Emilio Segre e tanti altri. Poi ci fu un'importante ripresa dopo la guerra, a Milano con il CIS, a Roma con l'Istituto Italiano di Fisica Nucleare, col Comitato Nazionale delle Ricerche Nucleari, che poi diventò CNEN e adesso si chiama ENEA. E appunto questo libro della Manusardi esamina gli sviluppi della ricerca italiana nel campo della fisica, dove, ripeto, abbiamo ottenuto spesso dei risultati molto importanti e molto lusinghieri. Ma sentiamo su questo l'autrice. Buongiorno a Ludovica Manusardi. Buongiorno Salvatore Carrubba. Allora, nella prefazione al libro dice ma Giovanni Caprara che quella della fisica italiana è stata una meravigliosa avventura. Quali sono stati i punti di forza di questa meravigliosa avventura? Beh, i punti di forza sono stati parecchi e io ho scritto questo libro proprio per cercare di ricordarli. Allora, tutta la vicenda che inizia intorno agli anni 50 sul studio dei raggi cosmici, che era stata già in parte iniziata da Bruno Rossi prima in Italia e poi negli Stati Uniti, tutta la vicenda di Giuseppe Occhialini, tutta la vicenda della nascita del laboratorio di Frascati con tre macchine da primato, Ada, Adone e l'anello collisionatore, sono stati veramente un'avventura che si è manifestata in un lasso di tempo molto breve, si è realizzata con mezzi certamente non eccezionali come quelli di cui potevano disporre Stati Uniti, Inghilterra o Germania, che però grazie alla tenacia e alla capacità dei nostri e la genialità proprio dei nostri ricercatori ha avuto un esito estremamente positivo, perché da lì sono nate poi le premesse per la costruzione in epoche successive fino all'LHC di Ginevra, che è rientrato in operazione pochi mesi fa. Venendo all'attualità, lei a un certo punto si manifesta molto scettica sulla possibilità che ci possa essere un ritorno effettivo al nucleare nel nostro paese. Come mai questo scetticismo? Ma il mio scetticismo viene dal fatto che per poter parlare in maniera serena di energia nucleare occorre farlo senza emotività. Purtroppo nel nostro paese alcuni argomenti fanno scattare immediatamente la molla emotiva e si affrontano problemi dal punto di vista ideologico non sereno e non, diciamo così, basandosi sulla ragione. Se in effetti altri paesi utilizzano questa energia in maniera massiccia, voglio dire, ci sarà pure un motivo. Del resto l'ultimo incidente della piattaforma messicana mette in una luce molto sinistra tutte le altre forme di energia, in particolare quelle derivate dai fonti fossili, quindi petrolio, quindi soprattutto e anche carbone, che viene usato massicciamente sia in Europa sia in Cina, con delle iniziative che tendono a, diciamo, a produrre quello che si chiama carbone pulito, ma che naturalmente sono però più inquinanti del sfruttamento del nucleare, il quale poi presenta altri aspetti che sono quello principalmente quello delle scorie, sui quali però se si facesse ricerca in maniera opportuna si potrebbero arrivare a dei risultati interessanti. Un capitolo del suo libro è dedicato invece alle scoperte, alle frontiere relative al cosmo e all'universo. Ecco, su questo fronte quali sono le frontiere più interessanti che si stanno aprendo? Diciamo che noi come italiani abbiamo contribuito in maniera interessantissima alle scoperte sia all'astrofisica, all'astronomia, sia alle missioni spaziali. Non c'è stata, diciamo così, missione internazionale nel quale i nostri scienziati e la nostra agenzia spaziale italiana non abbia dato un contributo fondamentale. Per citarne alcuni, l'esperimento, diciamo, boomerang, che è quello che attualmente si sta facendo in Antartide per verificare le sorgenti del gamma dell'universo, e poi la missione Rosetta, che è l'ultima e che è quella che praticamente permetterà a un veicolo di atterrare addirittura su una cometa. Molto interessante, perché dalle comete noi praticamente abbiamo dato inizio alla vita sulla Terra. Questa pare almeno attualmente una delle ipotesi maggiormente condivise dalla comunità scientifica. Bene, grazie a Ludovica Manusardi Carlesi. Grazie mille, buongiorno. Un'altra studiosa e divulgatrice di fisica è Jennifer Ouellet, che pubblica con le edizioni Dedalo Corpi neri e gatti quantistici, 374 pagine, 20 euro, tradotto da Andrea Migliori. Anche in questo libro si parte da due italiani evocati nel Codice da Vinci. Leonardo da Pisa, meglio noto come Fibonacci, autore o meglio scopritore di una famosa sequenza di numeri, e Leonardo da Vinci. Il riferimento a questi due personaggi e al romanzo così famoso in tutto il mondo dimostra subito l'approccio di questo libro: rifarsi a esempi che vengono dalla prosa, dal teatro, dalla poesia, dall'arte, dal cinema, dalla televisione, per affrontare alcuni temi legati appunto alle scoperte nel campo soprattutto della fisica. Troviamo quindi qui uno stile molto divulgativo, in un libro scandito dalle pubblicazioni delle opere capitali del pensiero scientifico e dalle grandi scoperte. Quindi si va dal Divina Proporzione del 1509 fino all'ottobre del 2003, con un importante intervento sulla teoria delle stringhe, che è una teoria secondo la quale l'universo è costituito da piccolissimi oggetti simili a corde, spiega l'autrice, che vibrano e si contorcono in tanti modi diversi. Il modo in cui lo fanno determina quali particelle elementari si formeranno e dà origine alle forze fisiche che vediamo in azione intorno a noi, proprio come le vibrazioni dei campi elettrici e magnetici danno origine all'intero spettro luminoso. Ne segue che questa teoria è la migliore candidata esistente al ruolo di teoria di grande unificazione, quell'insieme di equazioni fondamentali che riuscirà a descrivere come funziona l'intero universo a ogni ordine di grandezza. Rob Eastaway invece è l'autore di Quanti calzini fanno un paio? Le sorprese della matematica nella vita di tutti i giorni, pubblicato da Dedalo, 174 pagine, 14 euro, tradotto da Umberto Menon. L'autore è tra l'altro autore egli stesso di giochi enigmistici per i giornali inglesi, e dunque troviamo qua di nuovo uno stile molto gradevole, facile per accostarci con le illustrazioni di Barbara Shaw a qualche divertente gioco matematico. E invece di Constance Ride è Da zero a infinito, fascino e storia dei numeri, pubblicato ancora da Dedalo, 190 pagine, 14 euro, tradotto da Domenico Minunni. A modo suo questo è un classico, perché il libro fu pubblicato nel 1955 e poi è stato più volte ristampato. Ci sono 9 capitoli intitolati ai numeri da 0 a 9 e poi al numero di Eulero, e ha un ancor più misterioso Aleph con 0. Un libro affascinante anche questo, non solo per gli esperti ma anche per i lettori comuni, che potranno anche esercitarsi in qualche problema che certamente, vi assicuro, non vi metterà in imbarazzo come a scuola. All'obiettivo di divertire anche il magico libro dei numeri, Famosi, strani, curiosi, di Tim Glynn Jones, che è un giornalista inglese appassionato di numeri, 190 pagine, 10 euro, tradotto da Vallardi, tradotto da Elena Ganz. Qui abbiamo un sacco di curiosità connesse coi numeri, si va dal numero 1 a 9.460 miliardi, 730 milioni, 472.580 8 chilometri, che è la distanza di un anno luce. E poi troviamo tanti altri numeri legati alla storia, come 1776, agli oggetti come il 45 della Colt, a sport come l'1, la maglia dei portieri di calcio, alle religioni come 72, un numero che ricorre sia nella Cabala che nelle tradizioni islamiche che nel Vangelo. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi 3 libri di narrativa. Uno è di un grande classico, Joseph Roth, Fragole, pubblicato da Delphi, 178 pagine, 14 euro, tradotto da Rosella Carpinelli Guarneri. Troviamo qui 2 novelle, Per Lefter e Fragole, appunto, che sono 2 inediti pubblicati per la prima volta verso la fine degli anni 70, il secondo dei quali è in realtà l'abbozzo di un romanzo al quale Roth aveva attribuito grande importanza, era particolarmente ambizioso, e il grande scrittore voleva concentrarvi, distillarvi tutto il suo stile, che ne fa, come sapete, l'espressione più importante della cultura mitteleuropea. Il secondo romanzo è di Jodi Picoult, che è una scrittrice americana specializzata nel legal thriller, di cui esce La bambina di vetro, Corbaccio, 576 pagine, 19,60 €, tradotto da Lucia Corradini Caspani. Questa storia prende spunto da una bambina nata con una malformazione che provocherà una causa contro la ginecologa che non l'aveva diagnosticata, ma anche una straordinaria tensione nella famiglia coinvolta. E infine un libro francese di Benoît Dutertre, I piedi nell'acqua, pubblicato da Excelsior 1881, 196 pagine, 16,50 €. Un romanzo autobiografico, questo, che ha avuto un grande successo in Francia. Lui, tra l'altro, è il pronipote di un ex presidente della Repubblica francese, che descrive l'evoluzione della società del suo paese attraverso le cronache estive di un villaggio marinaro dove si ritrovano ogni anno alcune famiglie della buona borghesia parigina. E così dalla fine degli anni 60 a oggi vediamo attraverso queste vicende il cambiamento dell'atteggiamento di un pezzo di quella società francese nei confronti di quei luoghi, delle vacanze, ma soprattutto di se stessi, della politica e della società. Vi segnalo che oggi a Pietrasanta si conclude l'iniziativa Anteprime, che è organizzata dal Comune di Pietrasanta con Einaudi, Electa, Frassinelli, Mondadori, PM, Sperling e Kupfer. Questa è un'iniziativa particolare perché ogni casa editrice un paio di volte all'anno presenta le proprie opere ai venditori perché questi poi le piazzino nelle librerie. In questa occasione questo incontro è di tipo pubblico e quindi c'è appunto anche il pubblico dei lettori che partecipa a queste presentazioni, e ci sono gli autori che, assieme alla figura editoriale con la quale hanno lavorato in quelle case editrici, parleranno al pubblico delle loro opere, magari ne leggeranno alcune pagine. Oggi si comincia alle 18:30 e gli appuntamenti sono con Raffaele Cantone, Niccolò Ammanniti, Mario Vargas Llosa, Licia Troisi, Sveva Casati Modignani, Antonio Dorrico, Francesco Bonami, Benedetta Tobagi, Andrea Camilleri e Geronimo Stilton. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di grandi scrittori italiani del secondo dopoguerra e comincio con uno che è coautore di uno dei romanzi forse più fortunati degli ultimi decenni, cioè La donna della domenica. Parlo naturalmente di Carlo Fruttero. Franco Lucentini ci ha lasciato 8 anni fa, che a 84 anni ci offre uno spaccato della sua vita attraverso degli scatti raccolti in Mutandine di Chiffon, Memorie retribuite, pubblicato da Mondadori, 228 pagine, 18,50 €. Perché retribuite? Perché qui Fruttero raccoglie alcuni scritti già pubblicati, nei quali appunto Fruttero stesso parla della sua vita e di varie sue esperienze. Io non amo molto, forse ve ne sarete accorti, i libri che raccolgono articoli già pubblicati, ma questo che vi presento oggi vale la pena di essere letto per il garbo, l'ironia e lo stile che promanano da queste pagine, da queste esperienze di cui ci parla Fruttero, esperienze le più varie. Mutandine di Chiffon in particolare era il titolo di una canzone che aveva consentito all'autore di acquistare l'appartamento che poi sarebbe stato affittato a Torino alla famiglia Fruttero. E poi ci sono tanti altri ricordi, per esempio i ritratti di grandi editori come Mondadori o come Giulio Einaudi. Particolarmente esilarante, anche per il tragico velleitarismo di cui dà prova, è la vicenda del telegramma all'ONU che Giulio Einaudi si mette in testa di inviare per protestare contro l'invasione sovietica dell'Ungheria del 1956. Sentiamo dal libro di Fruttero queste righe fulminanti sul ritratto che l'autore fa della famiglia, anzi possiamo dire una vera e propria apologia, così si intitola, della famiglia e dell'angosciosa ricerca del miglior modo di educare i bambini. Forse molti di noi si riconosceranno in queste righe. Hai davanti quell'animaletto che guizza liberamente a quattro zampe sul tappeto. Grazioso, niente da dire, ma è pur sempre un bipede che dovrà muoversi in un mondo di bipedi. Bisogna insegnargli a reggersi in piedi, a camminare. E quello via di corsa a sbattere contro lo spigolo della lavastoviglie. Che fai? Lo tarpi o non lo tarpi, lasciando che la natura decida lei mediante caduta assassina in fondo alle scale? Lo tarpi e come? Gli rovesci addosso divieti, raccomandazioni, sgridate, sberle, minacce. E se ti vedo ancora saltare in tuffo nella vasca da bagno asciutta, io ti strozzo, hai capito? Da quel momento è tutto un tarpare, in effetti. Nessuna fiducia nelle capacità del piccolo suicida di cavarsela da sé. Già il triciclo è un rischio, per non parlare della bicicletta. Ma i pericoli sono dovunque, si moltiplicano mentre si diversificano. Come la mettiamo con le parolacce? Con gli amichetti truculenti? Con l'aggressività? Conrad Lorenz è affascinante sulle oche, ma non spende una parola per dirti come prendere un caro pulcino che sfoga su di te a pugni e calci la sua sana e incontenibile energia. Alle 19.40, quando sei appena rientrato da una dura giornata di cacciatore di yogurt e formaggini, né Lorenz né il più infimo consigliere ebdomadario ti sa illuminare sul serio quanto a settimana bianca o no. E se si sfracella la spina dorsale? Lezioni di nuoto o no? E se si becca il fungo delle piscine? Scuola di danza o no? E se si monta la testa e pretende di diventare Isadora Duncan? In realtà si va avanti nel buio. Dialettalmente a trucca e branca, tarpando e non tarpando secondo pigrizia, stanchezza, debolezza, malumore, nervi, soldi, chiacchiere sentite dal parrucchiere. Il pianoforte è un supplizio o non invece un'esaltante consolazione lungo l'intera vita? Magari la chitarra, la pittura, e l'inglese, e il canto corale. Le virtualità si infittiscono a ragnatela. Si vorrebbe che non ne perdesse una il moscerino. Ma se lo si iscrive a tutto, con tutte quelle scadenze, quegli orari di ferro, se ne fa uno schiavo, e poi dunque un ribelle, un disadattato, uno che come minimo si darà alla droga, allo scippo, alla prostituzione. Meglio lasciar perdere. Ah, ma allora potrà diventare un tristo mollaccione, un vinto in partenza, un fallito senza orizzonti, ambizioni. Un altro ritratto molto particolare di Giulio Einaudi è quello che vi propongo adesso, tratto da un libro fotografico che riguarda un altro grande scrittore del Novecento, Giorgio Manganelli. Questa è una bellissima foto mentre esce furtivo dal salumaio, ad Ogliani in Piemonte, nell'intervallo di una riunione Einaudi, dove secondo lui si mangiava troppo poco e doveva andarsi a fare un panino. Infatti si guarda in giro. Oddio, se mi vedono. Soprattutto temeva ci fosse in giro Einaudi, che magari gliene mangiava un pezzo. Questa era una cosa che lui non sopportava. E Einaudi era l'editore e il padrone. E durante i pranzi allungava la forchetta nei piatti dei suoi autori per assaggiare. Era cosa notoria e abituale. Mio padre un giorno si è offeso mortalmente ed è scappato. Alla ripresa della riunione alle 3, Manganelli era scomparso. Dov'è? Aveva preso un taxi e si era fatto portare in stazione e con Einaudi non ha mai avuto più niente a che fare. Queste righe erano tratte dal libro Album fotografico di Giorgio Manganelli, scritto dalla figlia Lietta e pubblicato da Quodlibet, 100 pagine, 14 euro. Come avete sentito, testimonianze molto vive che affiancano una raccolta di immagini dello scrittore che consentono sia le immagini che i testi di ricostituire la lunga carriera di Manganelli, ma anche di cogliere abitudini, tic e idiosincrasie dello scrittore. Dopo Fruttero e Manganelli, due altri grandi scrittori del Novecento che ritornano. Il primo è Luigi Santucci, scomparso poco più di 10 anni fa, di cui Marietti 1820 ripresenta uno dei testi più fortunati, che fu anche premio Campiello per il 1967, cioè Orfeo in Paradiso, 254 pagine, 15 euro. Questo è un romanzo in qualche modo faustiano, una sorta di patto con Monsignor de Suaso che consentirà a Orfeo di ritornare nel passato per rivivere il rapporto con la madre appena defunta e che lui conosce addirittura all'atto della nascita. È un romanzo questo particolare che ha segnato l'epoca in cui fu scritto e che ci riporta anche nella Milano di fine Ottocento, che diventa essa stessa una protagonista del libro. Vi propongo per esempio queste righe sui moti del 1898. Intanto, tra via Palestro e Corso Venezia, dove Orfeo si era spostato seguendo le notizie che passavano di bocca in bocca, i dimostranti avevano preso d'assalto un vecchio tram a cavalli dei pochi che erano rimasti in circolazione e, rovesciatolo, ne avevano fatto la prima barricata. Altri, con allegro furore, scardinavano le rotaie mentre sotto le scarpe i selciati crepitavano per i vetri già fracassati di tutti i lampioni circostanti. Si udiva il raschio precipitoso delle ultime saracinesche dei negozi, che per curiosità o incertezza non erano ancora state calate, il tonfo di qualche portone che si chiudeva, Sull'imminente campo di battaglia c'era adesso, mescolato ai dimostranti, un gran numero di donne, di ragazzi e anche bambini. «Arrivano!» annunciava qualcuno venendo dalla piazza. Parecchie donne vennero fatte salire con qualche bambino sul fianco del tram rovesciato che assumeva una pietosa figura di cetaceo all'asciutto. Per primi Orfeo vide arrivare i carabinieri. Partì qualche colpo sparato in aria e volarono i primi sassi mal diretti. Improvvisamente, dall'alto piovvero sui tutori dell'ordine delle tegole abbastanza fitte. Provenivano dal vicino palazzo Saporiti e parecchie andarono a segno. Fu aperto il fuoco in direzione delle grondaie di quel palazzo. Orfeo scorse una dozzina di carabinieri precipitarsi nel portone numero 40, bestemmiando. Poco dopo vide sbucare 5 o 6 scalmanati, fra cui un gobbetto, che fermatesi in portineria, dove il guardaportone si era rintanato tutto pallido. Erano usciti subito dopo con in mano il gallonato berretto e l'orologio di lui. «Le capè di sciori!» gridò il gobbetto, e gettato in terra berretto e orologio, li calpestò saltandoci sopra. L'altro grande protagonista del secondo Novecento è Goffredo Parisi, di cui Adelphi ripubblica un altro libro che ebbe allora un clamoroso successo. Parliamo del 1954, e cioè del Prete Bello, 260 pagine, 19 euro. Qui siamo a Vicenza nel 1940, dove molte vite ruotano intorno alla figura di Don Gastone Cauduro, un prete molto alto, giovane e bello, di cui si diceva, fa presente Parise, che fosse avvocato, che avesse biancheria tutta di lino e calze di organzino di seta. E anche un prete fascista che ha partecipato alla guerra di Spagna, ricavando in un libro che nessuno vuole recensirgli. Non lo farà nemmeno Radio 24. Due altri miti del Novecento troviamo in due libri fotografici che accompagnano due mostre attualmente in corso a Milano alla Biblioteca di Via Senato. Il primo è Curzio Malaparte in Malaparte, arci italiano nel mondo. E la mostra è in corso fino al 26 settembre ed è curata da Laura Mariani Conti e Matteo Noia. Il libro costa 40 euro. L'altro libro riguarda Pierpaolo Pasolini, dove troviamo tante foto esposte appunto in questa mostra che sarà in corso fino al 9 luglio ed è curata da Alessandro Noceti. Le immagini sono in parte appunto inedite. Il libro costa 20 euro per 72 pagine. E a questo punto... Il confettino. Concludiamo con un classico anche per i bambini, e cioè I libri della fantasia di Gianni Rodari, pubblicato dai Naudi, con le illustrazioni altrettanto importanti di Bruno Munari, 854 pagine, 24 euro. Una raccolta assai ampia dei capolavori dello scrittore, tra racconti e filastrocche che mantengono e ripropongono il loro guizzo assurdo e fantastico. E con questo ringrazio Vittorio Mussini, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi ricordo che sul sito www.radio24.it potete sempre ascoltare le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.